giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La notizia della morte di Gianpietro Benedetti ha creato vasto cordoglio soprattutto a Butrio, dove la Danieli, di cui era presidente, al suo quartier generale e dove oggi le bandiere dello stabilimento sono a mezz'asta. Ancora fughe dal CPR di Gradisca, dove nel tentativo di superare la recinzione un migrante si è ferito gravemente. Tradizionale incontro transfrontaliero oggi a Gorizia tra sindacati italiani e sloveni. In calendario un particolare ricordo dell'entrata della Slovenia nell'Unione Europea 20 anni fa. Lectio Magistralis al Polo Goriziano dell'Università di Trieste del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo la petizione popolare che ha raccolto più di 1500 firme per salvare il bagno Ausonia, si pensa al suo restauro che potrebbe costare 2 milioni di euro. Calcio, un pareggio, quello di ieri a Bologna, che non toglie l'Udinese dal terz'ultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Alle 12.31 ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. La morte di Gianpietro Benedetti vista dalla gente di Butrio, un paese che si identifica con la fabbrica della Danieli, dove il top manager dell'acciaio aveva il suo quartier generale e dove era conosciuto e apprezzato dalla gente. Bandiere a mezz'asta alla Danieli in segno di lutto per la morte di Gianpietro Benedetti, colui che ha contribuito a renderla grande, multinazionale. All'ingresso principale consueto via vai di dipendenti, mezzi e fornitori. C'è in generale poca voglia di parlare. Incontriamo Alessandra, manager di progettazione civile, prima di una riunione. Sono le prime ore del giorno, forse c'è ancora un po' di incredulità e di attesa di come si svilupperà la giornata. È una cosa che ci ha lasciato tutti senza parole, siamo un po' scossi, afferma. Devo dire che l'azienda ha sicuramente sentito l'impronta dell'ingegnere Benedetti e della voglia di progresso e spinta in avanti verso una parte più creativa e questo stimolo a far meglio, ci dice. Proprio davanti alla Danieli vive Silvano Segatto, dal 1958. È entrato in ditta nel 1960 in montaggio e carpenteria, prima ancora di Benedetti, dal 61 nel gruppo come disegnatore tecnico. I due si conoscevano. Ha portato il benessere a Butrio, ci dice Segatto, se no eravamo tutti contadini. Ricorda di essere stato premiato con una medaglia da Benedetti e Cecilia Danieli nel giorno del suo pensionamento, ma anche di averlo aiutato un giorno che al presidente si scaricò la batteria dell'auto. Benedetti per Butrio è stato un grandissimo, concorda in paese un pensionato. In questi 40 anni Butrio è migliorata, la Danieli è conosciuta in tutto il mondo a livello industriale, è un fiore all'occhiello, ci dice la cliente di un bar. C'è dispiacere, se n'è andato un uomo che ha fatto la storia, le fa eco la titolare del caffè. Il fatto che ci sia la Danieli ha fatto incrementare il lavoro anche qui da noi, conclude. Abbiamo diversi dipendenti ed ex collaboratori come clienti. Fuori dall'azienda, intanto, a pochi metri dalle bandiere a mezz'asta, si rincorrono in cortile i bambini della scuola Danieli. Accoglie i figli di dipendenti e non. Giocano in italiano e in inglese. Butrio, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Gradisca di Sonzo un uomo che cercava di saltare da almeno 5 metri d'altezza si è ferito tentando la fuga dal centro per i rimpatri. Con lui altri 3 stranieri che però sono riusciti a far perdere le proprie tracce e ora sono ricercati dalle forze dell'ordine. In 4, tutti tunisini tra i 25 e i 40 anni, intorno a mezzanotte hanno tentato la fuga dal centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo, dove erano trattenuti in attesa di essere rimpatriati. Si sono arrampicati sino al tetto, riuscendo ad aprirsi un varco con mezzi di fortuna, quindi il salto di circa 3 metri dal muro di recinzione. In 3 ce l'hanno fatta ad allontanarsi. Il 4, un 30enne, nella caduta ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara. Non è in pericolo di vita. Un 5º migrante, un cittadino marocchino, dopo la caduta è salito sul tetto in un altro punto della struttura, forse per tentare a sua volta la fuga o forse per protesta. È rimasto lì tutta la notte, fino a quando gli operatori del centro, dopo una lunga mediazione, sono riusciti a farlo scendere. A ricostruire quanto è successo il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, i 3 tunisini che sono riusciti ad andarsene, 2 quarantenni e un 25enne, sono ricercati. A tutti, anche al ferito, era stato convalidato il trattenimento amministrativo, da quanto si apprende dopo essere rimasti coinvolti in indagini per spaccio di droga. Il loro allontanamento dal dal CPR non costituisce reato poiché si tratta di un centro di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i migranti sottoposti ad ordine di espulsione in attesa di rimpatrio coatto. Oggi ne sono ospitati 79, in 81 sono stati riportati in patria nel primo trimestre dell'anno, fa sapere ancora Ricciardi, che intanto annuncia un nuovo intervento di manutenzione straordinaria all'interno della struttura per riparare i danneggiamenti che la scorsa notte hanno aperto la strada ai fuggitivi. L'ultimo di una serie di episodi, conseguenza di lunghi tempi di trattenimento, ribatte il segretario del SIULP, sindacato di polizia di Gorizia, Alessandro Nenca, per il quale è necessario ripensare il sistema dei CPR. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina. Una delegazione del Comitato per la Scuola di Grado, che si oppone all'accorpamento dell'Istituto Marco Polo di Grado con l'Istituto Dante Alighieri di San Canzan di Isonzo, consegnerà una petizione in merito al Presidente del Consiglio regionale Mario Bordin a Trieste, in piazza Oberdan, alle 13.30. 20 anni dopo l'entrata della Slovenia nell'Unione Europea, il tradizionale incontro transfrontaliero fra i sindacati alla vigilia del 1° maggio si svolge in una situazione di ripristino dei controlli alle frontiere e la sospensione del trattato di Schengen è destinata a protrarsi ancora. Con quali conseguenze? Lo abbiamo chiesto a Roberto Treu, presidente del Consiglio Sindacale Interregionale Italia-Slovenia. Uno dei temi di questi giorni è il prolungamento della sospensione di Schengen. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono il rallentamento dei confini e soprattutto il fatto che viene meno uno dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, qui si festeggia anche 20 anni della Slovenia, l'entrata della Slovenia nell'Unione Europea, e uno dei fondamenti è quello della libera circolazione delle persone e dei lavoratori. Si blocca e si rallenta questo aspetto per motivi che non vengono risolti da questi blocchi e sono assolutamente inutili. Qual è il messaggio che volete lanciare oggi? No, noi vogliamo lanciare un messaggio che è quello della libera circolazione, ripristino della libera circolazione, e soprattutto anche affinché i governi italiano e sloveno si siedano attorno a un tavolo, riconoscano la specificità del lavoratore o della lavoratrice frontaliera e pertanto si assumano quelle misure che servono a evitare discriminazioni che oggi colpiscono i lavoratori di qua e di là del confine quando lavorano da una parte e risiedono in un altro paese. Tutto ciò è inaccettabile. E quali sono queste discriminazioni? Riguardano tanti aspetti, riguardano per esempio, nel fatto fiscale, il riconoscimento di salario differito per quanto riguarda la liquidazione, non come guadagno salariale tout court, oppure l'assegno di famiglia che in Italia non viene dato e non viene erogato a una persona che pur lavorando in Italia risieda all'estero. E poi potrei continuare su altri aspetti che riguardano la previdenza, che riguardano l'applicazione di alcuni diritti come la 104, quella di assistere i genitori, la questione della disoccupazione e la possibilità di essere iscritti nei due paesi alle liste di collocamento che perdi il lavoro. Ecco, sono tutte cose riconosciute dall'Unione Europea ma che qui stentano e non vengono applicate. Con ciò l'Italia è stata anche sanzionata per alcune di queste questioni. Credo che bisogna assolutamente insistere perché con un po' di buona volontà, insomma, non sono problemi drammatici, potrebbero essere risolte a favore della regolarità del lavoro e della emersione del lavoro nero. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lavora in prima persona per favorire la pace nel mondo da più di 30 anni il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ospite questa mattina nell'aula magna del Polo Goriziano dell'Università di Trieste per una lezione magistralis dal titolo Per la pace, le risorse della diplomazia umanitaria. Tra il pubblico molti studenti di scienze politiche, facoltà che compie 50 anni. La tregua, se accompagnata da un importante lavoro diplomatico, non è mai una resa. Così il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, è tornato sull'invito del Papa all'Ucraina a negoziare per trovare una soluzione di pace ai nostri microfoni quando lo intercettiamo poco prima della Lectio Magistralis che si sta tenendo proprio in questi minuti nell'aula magna del Polo Goriziano dell'Università degli Studi di Trieste di fronte a un folto pubblico di studenti, molti dei quali provenienti dallo storico corso di laurea in scienze diplomatiche, destinati ad operare nelle ambasciate di tutto il mondo, volti giovani, sguardi curiosi, orecchi attenti ad ascoltare le parole di pace che il cardinale, delegato tra l'altro del Papa sulla crisi in Ucraina, pronuncerà nella sua lezione in un tempo segnato da conflitti armati sempre più violenti e distruttivi in Medio Oriente, in Ucraina, quando crescono gli interrogativi sulla possibilità di costruire relazioni internazionali orientate alla pace. Sono felice di affrontare questi temi in questa terra di confine dove la pace è stata sofferta per molti moltissimi anni e dove la contaminazione tra le culture diverse è continua e foriera di crescita comune, ha dichiarato il cardinale Zuppi prima di entrare in aula. Se l'Università di Trieste compie quest'anno 100 anni e pochi giorni fa ha diffuso un messaggio di pace con la laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche all'ex capo di Stato sloveno Borut Pahor, oggi a Gorizia celebra i 50 anni del Dipartimento di Scienze Politiche. Nel pomeriggio, su invito del Vescovo Enrico Trevisi, il Cardinale Zuppi si sposterà a Trieste alle 17 nella Chiesa di Sant'Antonio in preparazione della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio e avrà come tema al cuore della democrazia partecipare tra storia e futuro ed è atteso proprio il Papa Francesco. Gorizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sul treno di miglioramento collegamento transfrontaliero Micotra, il servizio ferroviario che collega la stazione austriaca di Villaco Centrale a quella di Udine, che viene esteso a Trieste Centrale nei fine settimana e nei festivi, a partire dal 1 maggio sarà introdotto l'obbligo di prenotazione per i passeggeri con biciclette e sarà variato sia l'importo della tariffa sia la validità del biglietto bicicletta sulle tratte nazionali. Pertanto si dovrà prenotare per obbligo e contestualmente acquistare il biglietto bici senza sovrapprezzo esclusivamente accedendo al sito delle ferrovie austriache o tramite app. La prenotazione sarà gratuita fino al 31 dicembre di quest'anno. La tariffa bicicletta unica per tutte le tratte nazionali sarà di 1,70 euro, a cui nel caso di viaggi transfrontalieri si dovrà sommare la tariffa applicata dalle ferrovie austriache. Il biglietto bicicletta non avrà più una validità giornaliera, bensì a singola tratta. Alle 12.41 siamo alla pagina del tempo, cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 18 gradi, Pordenone 20 gradi e mezzo, Udine e Gorizia 23, Piancavallo 15 gradi, Sappada 15 gradi e 5 decimi, Tarvisio 17, Foni di Sopra 17 e mezzo, Tolmezzo 19 gradi, in quota sul Monte Lussale e sul Monte Zoncolan 10 gradi, tornando sulla costa, Grado 19, Lignano 21 gradi e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi e domani: bel tempo, cielo sereno con temperature in aumento, 20 a regime di brezza. Fra 2 giorni riapre il bagno a Usonia, di proprietà dell'autorità portuale, un luogo tanto amato quanto abbandonato dall'usura del tempo. La petizione popolare ha raccolto più di 1.500 firme per salvarlo. Il segretario generale del porto, Vittorio Torbanelli, stima in 2 milioni di euro il costo per il restauro. La stesura del progetto sarà terminata alla fine dell'estate, poi si dovrà cercare i finanziamenti, Ministero della Cultura, ma anche enti locali e privati. Il bagno a Usonia di Trieste è sicuramente uno dei punti di riferimento per la città, per chi ama la tintarella, fare i bagni, adoratissimo anche dai bambini che si tuffano, ed è anche ricco di centri estivi che d'estate appunto organizzano proprio lì le loro attività. Dal 2019, quando c'è stata la mareggiata che ha distrutto la piscina all'aperto, non è più stata restaurata e adesso si chiede di salvare la piscina dei bagni a Usonia di Trieste. La prima firmataria promotrice di questa richiesta è Lucia Starace Cattonaro, presidente del centro studi FVG Ceres Donne, insieme ad Andrea Verenfening, presidente di Lega Ambiente Trieste. Allora, presidente Lucia Starace Cattonaro, che cosa chiedete? Noi a questo punto siamo felicissimi di avere qui il segretario generale dell'autorità portuale, che è l'ente proprietario dei bagni Savoia Usonia, che noi diciamo per merito nostro hanno ottenuto nel giugno del 2023 la conferma del valore dell'interesse culturale dei bagni. In che condizioni versa oggi il bagno a Usonia? Riaprirà in che condizioni? Praticamente la zona agibile ai bagnanti, ai nuotatori, e la parte a destra entrando, che è l'ex zona Savoia, più il bar E poi si arriva alla zona transennata dove la piscina è inibita all'accesso di tutti appunto dall'8 di agosto del 2019. Il progetto che noi abbiamo appreso anche attraverso la stampa locale del giorno 27 e il progetto dell'autorità portuale è quello di metter mano a tutti i bagni, a tutto lo stabilimento, i bagni correttamente Savoia Ausonia, comprensivo della piscina che tanto manca a tutti gli atleti, ai ragazzini, sono 400 che ogni estate vanno a fare i loro allenamenti in questi spazi ristretti, eccetera. Quindi sarà un intervento complessivo che comprenderà la piscina. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina la nostra trasmissione televisiva Buongiorno Regione si è occupata della riserva naturale delle falesie di Duino, dove arrivano a nidificare decine di uccelli e dove vigono particolari attenzioni di tutela. Sono circa 45 le specie di uccelli che scelgono la riserva naturale delle falesie di Duino per nidificare. Le pareti ostiene, come le chiamano i locali, scendono ripidissime sulla superficie del mare, si riscaldano e offrono rifugio anche alle tante specie migratorie che qui vi sostano per riposarsi o alimentarsi. L'ornitologo Paolo Utmar. In questo momento sta nidificando le dredone, la volpoca, il germano reale, il passero solitario, il gabbiano reale e il falco pellegrino. Chiaramente certe sono più visibili perché sono anche più numerose, altre come il falco pellegrino, la femmina è nel nido con i pulli appena nati e il maschio porta da mangiare, quindi si vedono complessivamente poco. Nel periodo di nidificazione vige il divieto di arrampicata che durerà fino al 30 giugno, un provvedimento adottato dal comune di Duino Aurisina per tutelare queste specie che però subiscono anche l'impatto dei cambiamenti climatici, e cioè delle temperature anomale per la stagione. Alcuni uccelli come il corvo imperiale infatti hanno cominciato a nidificare già a marzo, altri animali come le rondini devono attendere che il tempo si ristabilizzi per riprendere la riproduzione. Abbiamo notato la mancata nidificazione nell'estate del 2022 delle dredone, forse perché le condizioni spiccatamente mediterranee di quell'anno hanno nuociuto, diciamo, alla presenza della specie. Poi c'è anche l'impatto dell'uomo, il sentiero Rilke risulta essere tra i più visitati del territorio. Bisogna rispettare le regole, quindi rimanere sul sentiero, non uscire per cercare di fare la foto bella al falco pellegrino, ma piuttosto mantenersi sul percorso. E nella zona marina, in cui la fascia di tutela è piuttosto stretta, solo 50-60 metri, bisogna rispettare in maniera integrale perché il dredone, ad esempio, nidifica proprio nei primi metri della battigia. Duino, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Il territorio e i percorsi meno battuti della montagna della regione vengono filmati e pubblicati sul web da Vincent Clark, che in collegamento dal Pordenonese questa mattina è intervenuto sempre nella nostra trasmissione Buongiorno Regione. È un videomaker professionista, ma lo fa per semplice passione. Vincent Clark è della pedemontana pordenonese e su YouTube ci accompagna nei luoghi più belli delle nostre montagne, con escursioni dalle più semplici alle più impegnative. Nessun consiglio tecnico, tuttavia, solo un voler mostrare il territorio e i percorsi meno battuti, come i sentieri di tutta la montagna del Friuli Occidentale. Ma come si sceglie un percorso da mostrare sul canale? Non conosco tutto il Friuli Venezia Giulia e questo è proprio il motivo per cui ho l'ispirazione per esplorarlo e conoscerlo, perché comunque sono molto legato alla nostra regione, per cui ogni posto nuovo magari che trovo su Instagram o su internet in generale, o anche dai libri, ho un sacco di libri di escursioni, di montagna, e se magari vedo una foto, una descrizione che mi incuriosisce, tendenzialmente vado ad esplorare quella zona, ecco. Fondamentale la conoscenza del territorio, anche per sapere cosa riprendere. Inizialmente andavo semplicemente nei posti che conoscevo di più. Da quando ho iniziato a girare un pochino anche fuori dalla mia zona, è stato un po' più difficile capire come organizzare un'escursione, perché soprattutto se magari volevo fare delle riprese o delle foto, volevo essere sicuro di trovare dei posti che fossero adatti a, ecco, fare anche queste riprese. Per cui tendenzialmente mi informo, prima di tutto guardando su internet, soprattutto su Instagram, se trovo delle foto di chi c'è già stato, anche per capire magari le condizioni meteo, se c'è neve in questo periodo, in cui c'è ancora tanta neve, nonostante magari stiamo andando verso la primavera e l'estate, e dopo appunto con dei libri, con delle recensioni su dei blog. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Con un po' di fortuna in più avrebbe potuto essere l'inizio della riscossa, ma il punticino rimediato a Bologna non toglie l'Udinese dalla zona retrocessione. È vero che ci sono stati tanti scontri, tante persone a terra, però se poi vado a vedere le immagini sul gol posso dire pure che il mio portiere è stato toccato. Fabio Cannavaro ritorna a fare il difensore, in questo caso di Okoye, che comunque ha le sue colpe sul gol di Salemakers. Il tecnico dell'Udinese non fa polemiche e si tiene stretto il punto che dà ancora speranza. Contro il Bologna i friulani si sono difesi, come è giusto fare con una squadra ad un passo dalla qualificazione in Champions. Hanno trovato il vantaggio creando altre due occasioni e in superiorità numerica hanno subito il pareggio, sfiorando alla fine il colpo a sorpresa, non fosse stato per un palo in più. Serviva dimostrare di poter lottare per l'obiettivo salvezza e le prime risposte sono arrivate. La paura rimane sempre l'avversario più difficile da sconfiggere, ma l'impostazione di un Udinese meno arrendevole con Samardžić, bravo a giocare tra le linee vicino a Pereira e dietro a Lucca, rende meno vulnerabile la squadra di Cannavaro. Quello che abbiamo provato, quello che abbiamo cercato di pulire, quello è, io l'ho visto in campo. Io l'ho visto e sono sicuramente soddisfatto, e questo deve far capire ai giocatori che solo attraverso il lavoro, solo attraverso l'attenzione, solo attraverso la voglia si può arrivare a una salvezza importante. Lunedì prossimo nel posticipo un'altra finale con il Napoli al Friuli, dovendo giocare senza gli squalificati Perez e Pagero, oltre agli infortunati Lovric e Toven, con Eizibue da valutare. È una montagna da scalare, ma l'Udinese deve crederci per risalire dal terzultimo posto. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket femminile. Nei play-off, come nella stagione regolare, la Desser Udine non interrompe la serie di successi. Nella gara 1 dei quarti contro la Spezia vince 78-66. Il vantaggio matura già nel primo quarto, chiuso sul più 13. Leggera flessione nel secondo. Dopo l'intervento, le bianconeri prendono un margine rassicurante grazie all'ottima vena di Milani, Gregori e Cacicchi. Quest'ultima nel finale si infortuna, botta la testa, esce in barella, una notte in osservazione all'ospedale, ora sta meglio ma dovrà saltare gara 2. Le compagne contano di riaverla per la semifinale. Nel tabellone 1 il primo atto dei quarti vede il futurosa Trieste sconfitto sul campo del Costa Masnaga 85-68. Pesante per le giuliane l'assenza di Rossette. Nell'ultimo quarto l'impiego al risparmio di Miccoli, gravata di falli. Giovedì 2 maggio, gara 2 al Pala Trieste. Ancora calcio di Serie C. Nell'ultima partita della stagione regolare la Triestina è stata sconfitta per 3-2 sul campo del Padova. I padroni di casa hanno segnato per primi con Bortolussi a metà del primo tempo, ma per la Triestina ha rimediato Vertainen al 40esimo. Nella ripresa gli alabardati sono partiti bene, passati in vantaggio con Reda al 55esimo, ma i veneti hanno recuperato con Faedo al 62esimo e a una decina di minuti dalla fine hanno messo a segno il gol del successo con Dezzi. La squadra di Bordina ha chiuso al quarto posto con 64 punti alle spalle del Mantova, promosso in B con 80 punti, del Padova 77 e del Vicenza 71, vittorioso per 2-1 sul campo dell'Alessandria. Ora i play-off si comincia il 7 maggio. Una notizia di spettacolo: il cartellone del Far East Film Festival prosegue con la consegna del riconoscimento del gelso d'oro alla carriera al produttore taiwanese Qiu Fusheng, artefice di capolavori come Lanterne Rosse e Città Dolente, che si terrà a Udine al Teatro Nuovo alle 19.15. La giornata di eventi sarà conclusa dalla proiezione del sudcoreano Exhum, in cui si potrà assistere a una storia sull'occulto al Teatro Nuovo alle 21.45. Numerosi anche gli appuntamenti al cinema visionario per il festival, che aprirà la giornata con il taiwanese Beautiful Duckling, con una storia ambientata nel paesaggio rurale nazionale e un racconto sulla vita dell'uomo comune e la sua profondità emotiva. Alle 14 il cartellone del cinema visionario sarà concluso con l'indonesiano Chetna Dien, che racconta la resistenza delle popolazioni locali contro i colonizzatori olandesi, alle 18.20. Per il ciclo dedicato all'Asia di oggi, l'incontro Taiwan e Hong Kong, due storie, due modelli, sarà condotto da Stefano Pelaggi, docente all'Università La Sapienza, al Teatro Nuovo, alle 17.45. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga parteciperà al taglio del nastro per l'avvenuto acquisto del terreno adiacente alla fondazione, dove sorgerà il villaggio Enzo Kainer, Raffaeletto Umberto, alla sede della Fondazione Kainer in via Perugia alle 16.45. Acegas APS AMGA comunica che in accordo con l'amministrazione comunale di Trieste procederà nella notte di oggi con un intervento urgente di ripristino dell'asfalto in piazza Sansovino all'imbocco della galleria Sandrinelli con modifiche alla viabilità per il tempo strettamente necessario ai lavori. Per ridurre al minimo i disagi l'interruzione del traffico è prevista dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina in galleria Sandrinelli, in piazza del Sansovino, nel tratto compreso tra via Madonnina e la galleria, in via Silvio Pellico, nel tratto compreso tra Corso Italia e Piazza Goldoni e la Galleria. La nona edizione di Trieste Book Fest, manifestazione dedicata ai libri e ai lettori, prosegue con l'incontro con l'autore Jeff Seba, professore di bioetica, etica medica e filosofia alla New York University, che interverrà online a Trieste, all'antico Caffè San Marco, alle 18. Altro appuntamento della giornata, quello con il regista Hopner Thompson per l'evento I Canti del Prato, al bar Libreria Knulp in via Madonna del Mare alle 18. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Robot, lavoratori e contribuenti di domani, il volume curato dalla giornalista Luana De Francisco e dal tributarista Fabio Ghiselli, che sarà presentato a Trieste al Circolo della Stampa di Corso Italia alle 17.30. Per il ciclo, il lunedì dello Schmidl si terrà l'incontro Estro Talento Tanta Fantasia a Trieste a Palazzo Gopcevic alle 17.30, sotto la lente i 30 anni di attività dell'European Spirit of Youth Orchestra. La Lega Italiana Lotta ai Tumori ha organizzato la serata informativa di prevenzione e diagnosi dedicata ai tumori del cavo orale che si terrà a Savogna nella sala consiliare del Comune alle 18. Era questa la nostra ultima notizia. In segreteria ha collaborato Samantha Goni, in regia per la parte tecnica Mauro Cumin e Carlo Morello. Da Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.